abbastanza prigione. E infatti, Lugani ho atteso vari così, ma è come se stia un figliolo. Io l'ho portato stamattina, ha fatto le sue cose, l'ho fatto fare la domenica, siccome gli faccio fare il giro più grande, no? E l'ho portato lì vicino in Corso Vico, capito? Ah, stavolta una signora in macchina si è fermata, ah, che bello, che bello, ah, c'ha culo. E te lo provo di là. Sto facendo pagare. Così che è stata via truccando luce. E se no un giorno ero seduto lì, vicino a casa, sotto a casa, non c'è la fermata del Trangia. In quella panchina c'è, sì. E mi sono usato in chivi, mi si siedono vicino queste tre o quattro figone, che ma figone veramente, mi. Girani, di tutto quanto, a Carignada, Lugani, guarda, di tutte le maniere ne l'hanno fatto. Qua, l'altro giorno sono salito in Piazza Castello con Marco, diciamo andati a farci un giretto, a pigliarci il gelato, l'unità, a farci un giro. E c'è quel battaglio. A un certo punto questo giretto ho visto questo tipo che aveva tre, come si chiamano, tre dalmata, cuccioletti, lì c'erano stati 2 mesi, dai. Mi stava prendendo 200 euro l'uno, ma belli, in attalice, aveva avuto idea, me l'aveva comparato. Ma se c'è già la Tyson, cazzo. Oh, Fidocci! Mi non mi ha fatto appignare, andateci a trovare la tua notte. No, per carità, buonasera a tutti. È da vari giorni che non vado al mare, vari giorni. Oggi eravamo con mamma, da Ocean, abbiamo mangiato al McDonald's, poi fatto una spesuccia. Ah, vabbè, fatto un bel. Almeno lì c'è fresco, Marco. Non è pagato, né l'aria condizionata né nulla. Sì. Pensa che io volevo comprare, siccome il climatizzatore portatile ce l'abbiamo, ma quello ti fulmina, ti fa venire proprio una broncopolmonite se non stai attento. Volevo comprare assieme a mamma un rinfrescatore d'aria che funziona con acqua e ghiaccio, no? E tramite radiatore con la ventola butta fuori aria fresca. Certo, non gelida come quella del condizionatore, ma per una stanza va bene. Questo ce lo usiamo a turno, niente, per esempio 50 euro a testa potevamo fare, niente, non ho voluto prendere. Boh, io non la capisco, certe volte spende soldi in boiate e quando c'è qualcosa di utile da comprare non lo prende. E se no me lo volevo regalare io, ma devo spendere 100 euro tutte le mie io e poi mi rimangono pochi soldi. 100, 120, adesso non mi ricordo quanto costa Sassari. Marco, ma il condizionatore si può regolare, la gradazione si può regolare, io lo regolo. Lo metto a 27 gradi, non ti ghiaccia e ti rinfresca la scala. Lo so, ma sai cos'è? Lì devi mettere... Il nostro è particolare, non ha il tubo grosso da mettere fuori dalla finestra, ha un cavo, grosso, e un'unità con la ventola che rinfresca l'acqua e poi te la manda all'unità centrale, no? Solo che mi costringe sempre ad avere sto cavo in mezzo e poi è pesante. No, quello è poco più piccolo di una stufetta a gas. Non ha bisogno di tubi fuori della finestra, per me è molto più pratico. So già il modello e la marca, Argo Clima modello Bear. No, il mio non c'era, non passava il tubo fuori, quindi solitamente fanno un buco nel tubo dello scarico dell'acqua e la fanno scendere lì, no? Ti ho messo un bidone io, le ho fatto uscire la pompa fuori e ne ho messo un bidone e scarica altro bidone, e poi quando è a metà prendo lo svuoto. Poi ti puoi anche recuperare l'acqua perché è acqua distillata. Ma tu in quale stai dicendo? Nel raffrescatore d'aria o nel climatizzatore? Climatizzatore, io non ho il raffrescatore d'aria, c'è il climatizzatore tu. Quello che con telecomando regoli i gradi che vuoi, se vuoi mettere più freddo, più caldo, puoi usarlo a caldo, capito? Puoi fare tutto. Ma io a caldo non li uso mai perché c'ho riscaldamento. comunque secondo me è meglio il freddo, perché quando c'è freddo ti copri, boh. Invece quando c'è caldo, anche se ti scopri, sempre il caldo c'è. Ehi, qua se per stare bene mi devo fare solo docce, docce di acqua fresca, allora mi dà un po' di refrigerio, so che poi mi scaldo di nuovo e a meno che non faccia 10 docce al giorno, perché qua c'è un caldo boia già, non puoi capire. Sai cos'è? Quello che abbiamo noi è un Argo, però ripeto, c'ha questa unità con la ventola da mettere fuori dalla finestra, sto cavo grosso che è poco flessibile, e, insomma è pesante da spostare sia da me che da mamma, invece quello proprio c'ha le rotelle, leggero, leggero, lo sposti da una camera all'altra con un dito, e non c'è voluto assare. E boh, vediamo se... come fa me lo compro, però me lo uso io, giustamente, se me lo pago io me lo uso solo io in camera. Che cane morto che sia, a chi mi va a dire così, fate tutti vai, e non ce lo soffrire anche a lì, avanti un attimo, poi quando lo si è rifrescato poi dice ma comunque sono 50 io. Quando si è rifrescato a voi lo devi dire però me. Meglia, ci sono altri modelli, ce n'è uno della Zephyr, di Ghisi, da 13, bruttissimo, poi c'è il Polifemo della Argo Clima, però non mi piace di forma, a me piace il Bear, mi piace più, l'ho visto in funzione da Auchan due o tre anni fa, aspetta, usciva quest'aria fredda, fresca, per non dire fredda, bello era mi. Tu non devi fare altro nella vaschetta che mettere acqua, possibilmente distillata se ce l'hai, sai, per non intasare i tubicini, e ci metti quei polaretti, come si chiamano, quei rettangoli blu di ghiaccio finto che metti in freezer, ci metti quelli per tenere l'acqua fredda il più possibile e ti manda aria fresca, molto fresca. Capo. Pigliatelo, Marco, se c'è la possibilità ti vendo un apparecchio costoso, vuol dire che ci riesci. Sì, vabbè, sono andati via spesso in fretta, cioè non so dove siano finiti questi soldi, me li sono mangiati proprio. E quindi vediamo, valuterò, perché caspita, siamo ancora all'inizio dell'estate, ancora mancano 2 mesi e mezzo di calura. Vabbè. Ma comunque adesso vieni, se vogliamo andare tutti e tre al mare, io sono in ferie da lunedì e ti devo dimandare a farti rubare. Che zone prediligete? Zona Platamona, io non posso allontanarmi tanto e cercare a casa dare da mangiare, quindi non mi posso allontanare. A Platamona qui verso una, io preferirei andare presto, dalle 8 sino a mezzogiorno, l'ora ideale è quella lì, non ti bruci, si sta bene, c'è poca gente, a quell'ora si sta tranquillamente. Per non alzarmi presto per me è un problema, vabbè. Io poi vado con mamma, no? Siccome le piace il mare andiamo sempre assieme. Noi certe volte per non avere troppo caldo, certe volte andavamo 2, 2 e mezza, certe volte andavamo 4 e mezza, 5, 4 e mezza, tipo non ti scotti e l'acqua è piscio. Platamona è calda perché si scalda tutto il giorno ed è una piscina, ho già. Ma di sera Platamona il mare fa schifo, è verde l'acqua, non mi piace. È argosa, è tutte quelle alghe sciolte, cazzo, sembra, ma c'è tanta mucillagine, non mi piace. A me piace la mattina quando è bella limpida l'acqua, dalle 8 di mattina sino a mezzogiorno, è l'ideale. Come facevamo i succi, andavano a quell'ora, a mezzogiorno se ne tornavano, si prendevano la doccia, mangiavano e poi si curicavano, è l'ideale così. Avanti, sì, anche io la penso così. La verità, in questo periodo Platamona è pulito, cioè in riva arriva qualche alga che galleggia di quelle posidonie, ma poi l'acqua è trasparente, non è gialla in questo periodo. Me lo ricordo, certi periodi è gialla, proprio fa schifo, ma in questo periodo è bella. A qualsiasi ora tu vada, vabbè, noi di mattina, la mattina è meraviglioso, forse l'acqua è un po' più fredda però, non lo so. Io mi sono mangiato la testa poco fa, siamo tornati un caldo boia, parcheggio ovviamente qua non ce n'è, perché guarda, in via Savoia è tutto vuoto di parcheggi, qua sembra che questi merdosi di questa via non escano mai, sono sempre a casa, sempre, tutti a casa, è una via di morti è questa. Non parlo per sapere benzina. Ah, per carità, guarda, via Savoia c'è sempre posto, quasi sempre, infatti c'era un bel posto, e l'ho messa lì. Mi voglio, ce l'ho tirato a volte di urlare, via di... Lascia, meglio non dirlo. Poi ci sono dei cadaveri, dei veri e propri cadaveri ambulanti, sono sempre a casa, tu le macchine le vedi, 20 ore al giorno ferme sotto casa, non escono mai, stanno aspettando la morte, capito? Che sopraggiunga. Ma te l'ho letto una, Marco, su Facebook c'era scritto, tutti festeggiano, lo comprano, non ho capito che anno che comprano, è un anno di vita in meno per loro. Come dico io, cosa c'è da festeggiare? Un anno di vita a meno, Emi. Altro che festeggiare. Vabbè. Natalino, età, non c'è stata più nessuna incursione? Ah no, che negativo. Negativo, L'esposto è pronto, firmato, pronto a consegnare. Eia, solo che ripeto Natalino, non c'è il tanto. Cioè non puoi fare un esposto anche perché uno ti ha bussato 3 o 4 volte alla porta, no? Se non ti ha minacciato di morte, o minacce, che ne so, di altro tipo, no, che esposto fai? Cioè? Io lo dico che questo mi disturba, cazzo. E poi già lo chiamano lì, dove lo devono chiamare. E se lo chiamano lì faccio una capatina al primo piano. Faccio, già ti spiegherò in separata sede. Al limite se ti fai vedere stasera a Platamona, perché scenderò a prendermi il fresco con mia moglie verso le 7, l'amica di mia moglie, già scende anche Gianni, se vuoi scendere, così ci vediamo rugelato, burro. Una volta tornato a casa io spogliato, boh, non esco più, sono già uscito per oggi. Tu sei un grumino a mattone. No, sai cos'è, se esco una volta poi non riesco più, perché poi qua davvero allora sì che si riempie tutto, non trovi un posto per parcheggiare e non ho voglia di azzuffarmi per il parcheggio, francamente, a cercare posto. Guarda, domenica sera è un caos, non trovi un posto, né su né giù, né davanti né dietro. È una cosa che non si crede, anche qui io non ne trovo parcheggio, infatti ce l'ho parcheggiata lontano la macchina. Ma se cosa faccio? Rimango a casa allora, solo chi non vuole parcheggio, se la devo usare la macchina la uso io. Poi lo troverò il parcheggio quando torno, e cosa vuoi ti dire? Ehi, no vabbè, quando devo uscire anch'io, se devo uscire esco, però basta, abbiamo mangiato il gelato anche da McDonald's, quel gelatino da 90, già, per oggi già andava il gusci. Te lo immagini già questo crumiro, oggi che volevo parlare al baracchino in macchina. E tu te ne sei con questo tallo che c'è e Marco in casa, ti puoi prendere un po' d'aria. Aria calda c'è già, aria calda, vabbè, a parte Platamona, ma a che ora devi andare tu Natalia, a Platamona? Verso le 7 io vado, adesso scende pure Gianni, almeno ci prendiamo un caffè, un gelato, chissà che vuoi. Ehi, vabbè, un po' si rinfresca, no, sai, no, però meglio sempre delle 5, già. No, mica va adesso, no, a prenderti il fresco bisogna andare alle 7, alle 8, bisogna andare, e ti mi dico fresco, Arumato. Vabbè, buon viaggio. Che bastardo, è un bastardo questo qui, oltre che ratapignara, è un crumiro. Ehi, vuol dire, dai, che ne lasciamo un tiamo due alla ragazza, dai. Adesso tocca dargliele io l'euro per il caffè. Guarda già, non conviene dare confidenza. Non so se te l'avevo detto a te, prima questa chiedeva un euro per il caffè, che poi invece è per mangiare. Poi ha detto che non mangiava da tanto tempo, mamma mangiava solo scatolette e mamma le ha portato dei ravioli. Dei ravioli già cotti col sugo e col parmigiano. E li ha mangiati a quattro ganasce. Però si sta allargando chiedendo se le potevamo portare una confezione di pane e dell'affettato. Siccome non dobbiamo campare pure una barbona, cioè, finché chiedi un euro finisce tutto lì, ma che io mi debba adoperare a pigliare e a portarle pure le vettovaglie e mi pare il colmo. Vabbè, uno ce lo può fare, lo fa. Se non lo può fare, ciccia. Non è che uno ce ne ha di più, può anche farlo, ma solo che l'istituzione a queste cose non ci pensa. Io mi ricorderò sempre di quello che ho preso io, che dormiva in una casa diroccata, in mezzo a tutti i bricchi di vino che si beveva. C'era una macchina rotta, adesso noi si coricava dentro la macchina e una notte l'abbiamo portato, siccome quello delle ferrovie ci ha detto che la casa era pericolante, che c'era tutta l'incidente, lui è entrato lo stesso di non lasciare lui, perché se no ci denunciava lui. Allora abbiamo portato la pensione famiglia. Quando è andato il dottore Cubisi ha detto, oh, è bello, una notte lunga, non ha fatto così male, guarda. Vabbè, dice uno, se può fare lo fa, però poi ha vizio, ogni volta che vai si aspetta che le porti roba, a me non mi va bene, mamma sarebbe pure disposta, ma non mi va. Questa è testarda, da lì non si vuole muovere, vuole la casa intestata, capito? Poveraggia, allora se lei vuole mangiare bene, se ne va alla Caritas e se ne va ai rifugi, capito? Gli alloggi ci sono per questi senza tetto, lei non ci vuole andare perché dice che è come in prigione, e lei c'è stata in prigione, lei vuole essere libera, allora cosa pretendi? Di mangiare bene facendo la barbona alla rotonda? Vabbè, era dell'anonima se qui, se non ci ha fatto uno dentro un portabagagli, non ti riguardi. Infatti si vede dalla faccia che è una bastardona quella mia. Lo so, ma chi rispetta compra. Poi vabbè, lei avrà pagato anche la sua colpa, ha pagato il debito con la giustizia, ma mi chiedo come abbia fatto a superare l'inverno già. Con quel vento, con quel freddo lì, cioè non ha il freddo di Sassa, il freddo che ci può essere in riva al mare, eppure quella non si dice, da lì non si muove finché non le intestano un appartamento firmato davanti a lei, e tanto rimagnimi. L'assistente sociale le ha detto che prima devono dare la casa a questi sozzi negri che stanno arrivando, capito? Agli italiani niente, ai rom gli danno la casa, ai negri gli danno la casa, agli italiani non gliene danno, è uno schifo. Infatti, così. Anche se uno cerca lavoro, gli dicono se è drogato, se è delinquente, se è drogato o delinquente non gliene danno. Io naturalmente dico ciuzzi negri, ma non sono razzista di così, solo che c'è un'invasione già, lo sai che girando a Sassari dovunque giri, che sia anche Viale Trento, ovunque giri è pieno di neri, sembra di essere in America, so già, sembra di essere negli Stati Uniti. Sì, prima erano i cinesi che ci stavano invadendo, adesso sono quelli, quando i cinesi si aprono i negozi, lavorano, non rompono il palo a nessuno, ma questi qua stanno facendo specie di greffe, di cose, a Porto Torres sono andati contro un ragazzo che lui si è accorto che li stava andando incontro, ha cercato di difendersi, l'hanno picchiato e gli hanno preso la catenina, il portafoglio e l'orologio. Poi questi stanno già facendo figli, vogliono fare la legge per cui loro saranno italiani, chi nasce qua risulterà italiano. Anche se da profughi, cioè questi praticamente annulleranno l'identità storica degli italiani, l'identità storica, cioè questi non sanno niente di storia, sono nati nel nulla, non sanno nulla. Com'è che ha detto quel tipo di destra? Questi annulleranno l'identità storica, è un'altra parola dell'Italia, capito? sono come senza patria, non sanno niente di storia dell'Italia dove vivono, loro basta mangiare e dormire qua, non gliene frega niente. Ha ragione quel tipo, non è di Casa Pound, ci mancherebbe, è solo uno che la pensa come la pensa Fabrizio, mascherato come la penso io, come la pensano molti altri anche. Pensavo che ha ragione quello lì. Prova ad andare in America a vedere se ce l'avranno la cittadinanza. Uno che conosco io ci ha messo 7 anni solo per avere la carta verde e ha detto cittadinanza americana non la prenderò mai, perché se io torno in Italia, anche se qua non posseggo un cazzo, perché lui vive in Texas questo qui, no? Detto, dovrei pagare sempre le tasse agli Stati Uniti. Ehi, dimmi già che avete parlato in due prima. Ma ho detto che quelli di destra la pensano così. Anche Salvini. Vabbè. D'altronde il Natalino dice pigliatele a fucilate, pigliatele a cannonate quando arrivano i barconi. Non si può fare Natalino, sono persone. Non è che li puoi pigliare, c'è qualche nazione che li avrebbe presi a cannonate, lo sai, pur di. E poi una volta arrivano indietro non possono tornare a Natalì, perché a malapena riescono ad arrivare qua, affogherebbero, morirebbero. Quindi a Malagana li devi accogliere. Però li puoi anche ripatriare volendo, è che sono spese, cioè mantenerli costa, dargli alloggio costa, anche rimpatriarli costa però. Ah, tu ti puoi trovare con la guerra in acque internazionali, quindi sì, in terra di nessuno. Ti spari un paio di mitragliate davanti e dietro alla barca e vuoi vedere fuggendo. Cioè, addirittura le navi da guerra in acque internazionali. Sì. Mamma mia, purtroppo l'Italia è un porto e posso dirlo a parole mie. E accogliamo cani e porci. Cioè l'Italia è la Troia del Mediterraneo. Tutti arrivano da noi, capito? Tutti quelli che ci sono a sud, quegli albanesi anche arrivavano dall'Adriatico lì, capito? L'Italia proprio è la meretrice del Mediterraneo. Infatti, adesso regalo il mio cucciolo e mi compro al suo posto un American Pitbull Terrier. Oh, Iulia. E perché? È così bello il tuo cucciolo? No, ma il mio cucciolo non li sbrana i negri, invece io lo alleno proprio a sbranare i negri come li vede. Addirittura. Vabbè. Però anche questa balla che tutti sono rifugiati politici, come dico io, buffa Melocci, già rifugiato politico. Questi hanno fame e lì non ce n'è, vengono a mangiare qua. Torto non gli puoi dare, perché ricordati che gli italiani all'inizio del secolo sono andati in America a migliaia, a decine di migliaia, forse a centinaia, ed erano visti come dei morti, pezzenti morti di fame, capito? Erano molto mal visti, eppure l'America li ha accolti, perché era un paese democratico, adesso un po' meno. Perché c'è Trump. Cazzo. Avrei chiuso le frontiere, non venite in Italia, se no, a parte il fatto che mi ero messo in acqua internazionale a pattugliare lì, come entravi a vicino un barcone, avevi chiuso subito pochi mitragliati, ne volevi vedere gente fuggente, così non sei responsabile di nulla perché sei in terra di nessuno. Sì, ma dove fuggono? Se sono in mare aperto, dove vuoi che fuggano? Indietro non tornano. Se no, sai cosa fanno gli scafisti? Li buttano in mare e se ne tornano col barcone vuoto. Chi è che vuole entrare avanti? Ho sentito un segnale sotto. Non vuole entrare, va bene. Capito già, gli italiani, gli irlandesi erano molto mal visti. Arrivavano a frottemi, anche prima dell'inizio del secolo, anche nel 1860, vabbè, c'erano irlandesi, italiani forse un po' meno. Ma sai, erano tutti, soprattutto le sud Italia, più poveri, erano molto malvisti. E quindi non abbiamo niente da dire noi italiani, eh? Non so, perché mio zio quando aveva 18 anni era partito in America e lì è diventato anziano ed è, poi se ne è tornato quando era in pensione, se ne è ritornato nel suo paese. Però ha cominciato a fare lo scaricatore di porto, poi è diventato capo operaio in una fabbrica, dirigeva proprio tutti gli operai. E poi è ritornato qua, ha fatto i soldi a palate, quando veniva qui a trovare mio padre comprava una giacca, tieni Mario te la lascio, la metteva una volta e non ne voleva più, prendeva la macchina fotografica per fare fotografie a cavalcata, ha preso una polaroid di quelle istantanee, ha fatto le fotografie e ci ha regalato la macchina, era, poi beveva whisky la mattina, presto invece che la colazione beveva whisky. Di Martin, lo so, scusate che prendo l'acqua un attimino che ho una sette. Lui era Detroit nel Michigan. Che figurati, c'è tutti i documenti, mi raccomando, c'è tutti i documenti sui, perché quando lui è morto l'avevano dato a mio padre, i documenti, aveva diviso qualche cosa, ma poca roba di tutti, e in più e tutti gli altri soldi li avevano lasciati alla casa di riposo dove stava, per ampliarla, per far comprare roba per gli anziani e cose. E la maggior parte dei soldi li ha lasciati, lui ci ha lasciato due cazzate, due spicci. E in più ci ha dato un portafoglio dove c'era la carta di credito, che non so ancora se sia piena, ma penso proprio di sì, ma lo mando di certo a Detroit a ritirare su. E poi le fotografie sue, tutte le tessere che usava in America, eccetera, eccetera. Il Michigan è a nord, mi pare, no? È molto a nord. Non si può sapere. Tipo zona dei Grandi Laghi, o sto sbagliando io? Cosa, Natalia? Tramite banca non si può scoprire se ci sono soldi in quella carta di credito. Non lo so, Natalia, è roba americana questa qua, non è vero, mentre la vabbè, ma loro fanno un affare internazionale e sanno se ci sono i soldi o no. Guardano nel conto corrente. Magari c'è un burri che non lo sono, ti rimangi lei, perché noi eravamo gli unici di tutti. Infatti. Io, sono passati anni, no? Non penso che ci siano più. Ce l'avranno immagnati, che le parte si diravano. Comunque lui una buona parte di ciò che aveva l'ha data all'Istituto Rovera, lui viveva qui nel suo paese a Milano, a Cugione esattamente, e praticamente viveva in una, diciamo, un istituto albergo, aveva un bagno in camera, televisore, tutto quanto, capito? Come un albergo era. Era di quelli di prima categoria proprio, bello e cose, e ha lasciato diciamo tutto quello che aveva, ha lasciato lì. Sì, infatti, almeno se ne avranno goduto quegli anziani che ci sono, che l'avranno ampliata, avranno fatto lavori in quell'istituto. Non si sono rimaniati i proprietari. Può darsi. È vero, raga, che ieri era deserto il 27. Credo di aver lasciato acceso tutto il giorno, tutta la sera, no, non ho sentito nulla. Veramente, c'erano dottori, infermieri, tutti di più, tutti... Allora, no, cosa del genere. Oh, Natali, ma ieri è deserto, era nel 27. Era deserto, sì, e infatti io ho spento tutto. Anche l'altro ieri Claudio non era entrato, ma già sta bene, sì, tocchiamo ferro, non è entrato più. Oh, non ho più sentito. E adesso col caldo magari se ne esce la gente, ma come così, non è che sta sempre attaccata alla radio, anche perché io perlomeno la strada più calda che c'è è questa dove c'è la radio. Sembra una battapulsa, ma su di da crepare. E infatti adesso sono così, mi sono i mutandi a petto nudo, con i piedi scalzi, c'è solo le mutande addosso. Anch'io, e fra poco mi levo anche quelle, se fossi solo me le sarei levate pure, perché mi fanno caldo. No, io uso slip. Sì, slip, tipo boxerini però, cioè non sono né troppo piccoli come gli slip e né boxer lunghi, una via di mezzo. Mudande, insomma, paradrutti. Ma qui sono spaccatrutti, sono per i zoo. Ah, che esalta anche il pacco. Esatto. No, sto scherzando. No, ho degli slip normali, dai. Ma non di quelli a gamba, di quelli sgambati. Avanti, e dai, io mi preparo che sta per venire l'amica di mia moglie, se no si trova per tenere le mutande qua. Vabbè, e cosa fa? E poi vede qualcosa che non dovrebbe vedere, non va bene. Sì, lascia che lo rimpiace. Secondo me non c'è niente da vedere. Le donne lo sai cosa fanno? Fanno finta, si mettono le mani davanti e poi allargano le dita per guardare. Allora, dice, a vedere come si è poi giù lo dito. Cavagara. Oh, sai cosa mi viene voglia di fare già? Liberare la vasca da bacinelle, eccetera, riempirla d'acqua a metà, non troppo perché l'acqua costa, acqua fresca, e buttarmi dentro e starmene lì tutta la sera. Sembra anche uscire tardi. Io adesso che sono in ferie, sino a mezzanotte, cosa sto sotto casa? Già hai capito con chi? Con quella... Vabbè, già hai capito, Marco, te l'ho presentato. Sì. E parliamo così, tranquilli. Siamo sino a tardi, un po' di volte siamo sino a tardi perché c'è il fresco, si sta bene, ti dà pure a tornare. Tentaci. Bravo. Già fatto? Zitto. Bene, Natalino si sta vestendo. Te le mangi? Sì, comunque l'ha detto anche mamma poco fa, è meglio in inverno. Che l'inverno ti copri, ma così la pelle non te la puoi togliere. Però strano questo atteggiamento che non ho voluto comprare questo rifrescatore d'aria. Cioè, pur sempre un elettrodomestico, non è mica bucce di yoga, no? Non lo so. Si è comprato un cellulare quando già ne aveva uno, si è comprato un cucù di bici di plastica da attaccare al muro, carino sì, ma ci usciva la sua metà, o molto meno ci usciva la metà di quell'apparecchio, vabbè, comunque te l'ho detto, se me lo prendo io me lo tengo io, me lo tengo in camera, non gliene do, giustamente. Che secco. No, perché non certe volte sperpera, poi quando servono le cose più utili non ne prende. Vabbè, si vedrà. Tu lo prendi, mi fa vedere la sua utilità e poi lei capirà. E visto che c'è un ragioneria, adesso dammi 50 euro, 100 euro, quanto ti deve dare? Costa un centinaio, diciamo a Sassari costerà, perché sai la spedizione c'è il costo del trasporto, costerà dalle 100 alle 120 penso, dipende dal negozio, dovrebbe avercelo sia Unieuro che Euronix, proprio largo clima modello Bear. Fai come ho fatto io che mi sono comprato il P10, che il giorno prima costava 100 euro in più, il giorno dopo c'era l'offerta e costava 100 euro in più, non è che si affronta, me l'ha detto. Oh. È un po' ingiusto però anche questo dei sconti, perché cioè non è giusto che uno il giorno prima, la sera prima magari lo paghi 100 euro in più, la mattina dopo 100 euro in meno, ma a saperlo venivo di Shell l'indomani, no? Noi al cliente lo diciamo, quando ci sono le offerte, per dire che ti sta prendendo 5 casse d'acqua, dico, perché non sapere domani che è un'offerta? Se ne prenda una per stasera e poi domani viene una per... Ah, così, sì, grazie già e mi ringrazio, ho capito. Che ti risulti? Ci sarà un... rinfrescherà? Non so il meteo come, no? Perché se venisse una bella maestralata, bella fresca, sarei solo contento, guarda. Guarda, forse con Natalia dobbiamo andare domani notte a pescare, se troviamo i vermi andiamo domani notte, Natalia, perché c'è questo maestralino che adesso porta con le onde lunghe che se ti fanno pescare bene. Andiamo alle 8, dalle 8 in poi, e ci facciamo a pesca. Eia. Dove le prendete le vermi? Da Sportland? Sempre, io sempre li odio. adesso mi do il nome, mi lascio anche quelli più grossi, quelli che voglio io. No, io li ho tre fatti, una volta sono andato a provincia e mi anche per me muro. Sì, poi ti dicono tutti, sì sì, sono freschissimi. Sì, anche a Olbia una volta. Una mamma lavorava a Olbia, ho comprato i vermi e metà non erano tanto vispi. E che costano, porco Giuda, quanto costano adesso i vermi gli americani? Mi sa se sei io, a scatto. Gli americani? Cioè, sempre di più. Ci compro 6 euro di pesce, mi risparmio la fatica, il freddo. Ecco. E non la stessa cosa, devi fare il break. Non è la stessa cosa, Marco. Avanti, break. Oh, buonasera, ciao Gianni, ciao. Sto diventando un po' rincoglionito, scusandomi, non mi ricordo il nome di quell'altro, Marco. Marco, giusto? Mi sembra Marco. È un po' la vecchiaia, sono un po'. Scusami Marco, mi sono dimenticato il nome. Avanti Marco. Vabbè, lui, almeno tu hai la scusante dell'età, sei più grande, ma io sono già rincoglionito a 45 anni. E non sto scherzando però, se a volte non mi ricordo le cose, non mi ricordo i termini, i nomi, capito? Quindi è più grave la mia età. Quindi c'è anche Natalino. Ah, c'è anche Natalino. Vabbè, lui già è vecchio comunque, non è giovane. Natalino già è più vecchio di me. Oh, Natalino quanti ne ha? Una sessantina, può essere. No, forse è più giovane di me Natalino. 29 agosto ne faccio 60. Per il momento ne ho 59. E allora sei più piccolo. E quindi non potrai mai essere più vecchio di lui, non per il momento, per sempre. Ciao Gigi, comunque. Mi è piaciuto il filmato che hai mandato, quel microfono esce bene. Ho fatto una. Così mi è venuto di farlo così. E l'ho fatto, dai. Tanto era una cosa che mi stava cambiando mio figlio, là. Poi ci avevano i bambini, quando vengono bambini a calcio avevano giocando perché lui non li stava adoperando e volevo fare amplificato qualcosa, però l'ho tolto, l'ho lasciato la capsula sua, là. Però ho fatto il coso del TTT, c'è mi davanti che schiaccio col dito io, dove lo tengo in mano, cioè, al posto dell'interruttore di accendere e spegnere quando metti la batteria o l'attacchi al coso. Ci ho messo il PTT, capito? Ah, ecco. Separato dal microfono, così. Sì, sì. No, ho attaccato al microfono e dove ci andava il tasto ci ho messo a lui dentro, ce l'ho fatto stare lì perfetto e va una meraviglia, capito? Poi ci sono quelle azzine che vendono, se uno lo vuole mettere, c'è anche quello, puoi fare anche a separato, a distanza. C'è l'azzina che lo puoi mettere, capito? Costa. Mi pare, non so se me l'ha fatta vedere chi era l'altro giorno. Non so se. Ah, cosa? Luca di Pontone me l'ha fatta vedere. Sì, se l'ha fatta nella macchina. Ma io ho visto. Si è attaccata nella macchina alla stia. Ce l'ha fissa e c'ha il microfono tipo MC60. Vabbè. L'ho fatto così, non sapevo cosa fare. Ne ho fatto anche altri che non possono mai visto, ne ho fatto altri microfoni che si accendono, si illuminano, fanno, me ne ho fatto dei pasticci, tonalità, di cambiare tonalità, tante cose ho fatto, dai. Io ci faccio il tempo, la noia è quello lì che ti fa fare queste cose, no? No, adesso non sto più facendo, sai come ho fatto quel microfono? C'ho due o tre lineari qua, di quelli valvolari, e devo sempre controllare, fare ce li ho qua, e non ho mai tempo di farle, non mi interessano proprio. E anzi, ne ho qualcuno pure, mi sa che me lo faccio fuori da qua e via. C'ho quelle 507 che c'ha gli attacchi, e ho fatto le modifiche per attaccarci un lineare a 24, il cable avevo portato dietro, ci vuole attaccare un lineare a 24 dietro, e il predisposto l'hai fatto, me l'ha fatto Roberto, e funziona normale, lineare normale, e però c'ha due cavi grossi dietro, c'è il tasto davanti che elimini il lineare davanti e fai funzionare un altro lineare che puoi collegare con quello che si collegano in camera. Il Natalino mi stava cercando uno di lineare, specifico, il CTE 747, mi pare che tu ce l'avevi. Ma quello non è lineare, quello è una scatoletta di sardina. Paglia ti aiuta, non ti preoccupare, Paglia ti aiuta. Quando stacchi non ti sentono, quando attacchi ti sentono, ti aiuta la Gigi, frega. È positivo, poi metterò in vendita anche questa sto modulando adesso, insieme al lineare, me lo tutto due assieme la invento. Che cosa? Questa sto parlando adesso. Che cos'è questo? Saturnetto. Cazzo, quando te l'ho chiesto non me l'hai voluto dare, la di grazia a lui. Positivo, e poi c'è il coso, il lineare, che è collegato, però non è attaccato, è collegato. Comunque se l'attacco a quello che voglio vendere è attaccato, collegato qua comunque. Ma 747 c'hai? No, è quell'altro 24, forse, voglio dire quello a transistor non va a volare, adesso l'ho attaccato. Ma tu avevi un 747 che mi avevi detto che l'aveva modificato tuo figlio, buonosso. Sta vendendo questo? Già ce l'ho, ti spaventi quando attacco quello, stai spendo questa cosa. Ti spaventi quando l'attacco quello lì, perché nel 48 quello che ho attaccato era 140 watt, non 70, 140. Nel 48, nell'altro 48 che ho adesso qua è la stessa cosa. Ah, io Luigi, che mi serve un lineare per la macchina. No, questo è a 220, non va nella macchina, questo è a 220, Natali, questo è a 220. Ne ho due a 24, ne ho due, uno lo do pure se trovo qualcuno che se lo prende, però 24, un 750, un 750 a 24 c'ho, però ci vuole la corretta a 24, ho alimentato la 24 come quello che ho io. No, ma mi serve per la macchina, lui, uno a 12 volte me ne serve. Tipo 747, B300. No, questo che ho io ce ne tre, perché ne avevo due. Uno da 80 watt, questo non so cosa c'ha, questo ne da pulsare a 100. Guarda, col coso, col flutto arriva quasi a 200 watt, i picchi 200 watt da col flutto. Figurati. Poi c'è un flutto per la macchina, quel flutto che ci ho modificato, quello però c'ha già il lineare lui. C'era nelle scippatore di calore e c'è un 747 CM come lineare dietro, perché anche quello è 70 watt. E a me mi serve tipo 747, poi se proprio non si trova un 747 anche un B300. È positivo. No, non lo so, no, io quello ce l'ho e no, non lo do. Lo tengo, no, tante cose mi tengo. Che tanto, ma non è che attenzione, non è che ne ho più di tanto, no? Se non va più entrando in radio. E ne ho paracchinetti belli qua e non è che non ne ho. E questo è bellissimo, è questo Saturnetto, non so se l'hai visto. In qualche foto l'hai visto come adesso già. Sì, l'ultima foto che mi hai mandato non è una foto filmato forse. Quello dove invece il microfono, c'era quello. L'hai visto come l'ho fatto davanti, l'ho sponsorizzato, gli ho messo tutto quello illuminato, quello era diviso, è minimo 3 mm qualcosa, gli ho messo questo, non è un adesivo semplice, una cosa da 3 mm grosso, quello che gli ho messo, è morbido, è grosso, ha uno spessore di 3 mm. Sono degli apparecchi qui. Scusa un attimino. Natalino, su quel sito Radio Hotel c'è il KL203, c'è il KL300, c'è il KL403, il 505, quindi è di tutti i cosi. I soldi ce li hai? Già ce li ho i soldi, la carta non ho. Ma tu non avevi una carta per fare acquisti internet, non me l'hai fatta vedere tu? Ma mi hanno fatto casino, allora la devo annullare. Capito? Beh, se no non ne posso chiedere un'altra. Devo decidermi a annullarla e a chiedere un'altra carta. Ho capito. Guarda, ci sono tanti modelli. Il 203 ha i MOSFET, 4 MOSFET, il KL300 invece ha gli MRF455, quelli a croce, che non mi piacciono tanto perché non sono MOSFET. Poi c'è quello che piace molto a me, il 403 o 405, adesso non mi ricordo la sigla, che ha 9 MOSFET, di cui uno pilota, e 8 MOSFET di potenza. Quello è un bijou, costa 160 euro. E a massimo 250 watt in AM e 400 e fruscia in banda laterale. Quello è un bel acquisto. Ma se me lo volevo pigliare io, ho detto, ma cosa me ne futti, per la 27 non ne spendo più soldi, che vada al diavolo tutto. E infatti per la macchina basta un 747, uno di quelli che danno 100 watt, no di più. È positivo, sono tornato. Ma io, c'è anche un alimentatore grosso da mettere in macchina, ci vuole l'inverter. Con l'inverter funziona questo alimentatore grosso, autocostruito sempre. Da me Giovanni, l'originale, e questo può far funzionare un inverte da 12 a 220 e fa andare un lineare di camion grosso, di quelli grossi però potenti, 1200 abbiamo attaccato qua, solo poi ti fermano e ti arrestano direttamente. Come quello che stava dicendo a Portottosi, che una volta era dall'elettrauto, questo camionista ha detto che stava passando sulla 131 e l'hanno fermato la stradale, e ha detto dove ce l'ha l'apparecchio, tanto che ha disturbato la parte della stradale, te li immagini, c'è proprio il lineare attaccato, ha detto ce lo dice, oppure dobbiamo sequestrare il camion e cercarlo lui. Abbiamo preso tutto, abbiamo preso l'apparecchiatura e infine hanno fatto un verbale da 1000 passa euro. È positivo, dai, questo l'abbiamo provato, abbiamo fatto le prove noi a Forore, abbiamo già attaccato, hai fatto le prove con un inverter a 220 piccolo, lo porta bene perché non ne assorbe corrente, però l'amperaggio ne ha da mettere in moto un camion, questo alimentatore, può mettere in moto un camion. Abbiamo fatto uno da poco, è stato fatto uno da poco, due o tre settimane fa abbiamo fatto un altro. Con Giovanni? E abbiamo fatto l'amicaccio nostro, ve l'abbiamo fatto. Ehi, sto sempre seguendo quello dell'antenne scoiattolo, qualcosa. Manda sempre i filmati adesso. Mario sì, è un amico Mario. È anche bravo, è una bravissima persona Mario. Non nasconde nulla, fa vedere tutto quello che fa. Non nasconde nulla, fa vedere tutto quello che fa. Sì, montando l'antenna, come si fa per quelle che girano, che si possono regolare. No, sembra una cosa veritiera, dai. Se io dovessi comprarmi una macchina nuova, io l'antenna lunga non la voglio più, voglio un'antenna corta però che renda. Sì, ma lui sta facendo una, ma hai visto quella da 1,80, quella che stava provando da 1,80, 1,80, lo dico da 1,80, che stava provando con l'antenna, con la, hai detto questi giorni scorsi, hai visto quella che stava provando, anche con me ha fatto le prove, un giorno l'ha fatta con me qua le prove, cambiava l'antenna e il cavo da un'antenna all'altra, una sul terrazzino, quella tipo quella del camion, no? Che si mette nella macchina, e attaccata l'antenna grande, la, come si chiama, tipo la mantova, così, no? E no, quasi quasi era più forte il radio, andava più forte quella là, che, e il segnale non cambiava, il segnale era uguale, non cambiava nulla. Sì, l'ho visto filmato, però c'è una cosa, Gigi, in una ci aveva il cavo più grosso, nell'altra era il 58, l'ho notato. Sì, quello l'ho notato, però no, come il 58, no, non lo so, perché lui invertiva solamente l'antenna, il cavo, cambiava, sì è vero, sì, quello c'era il 58 nell'antenna, quella per il camion c'era il 58, per la vettura c'era il 58, sì, perché l'aveva messo a provvisoria perché la stava testando, capito, e ce l'aveva in basso, sul coso del terrazzo attaccata, capito, poi l'hai vista quella sulla sedia che riesce a fare quella, e poi vista che togli il coso tu e c'è una cosa per regolare le stazionarie, hai visto dentro che regoli tu, girando quella vita, di quel coso regoli le, capito, spostando quella fare là, gira, puoi ruotare per fino a trovare il punto giusto per le stazionare, l'hai vista quella lì? Sì, l'ho vista, l'ho smontata, ho fatto vedere come si smontava, prima si toglie una vite, si toglie tutta la cappella di sopra, rimane tutta la carica nuda, eccetera eccetera, sì l'ho vista, stavo andando a filmare perché gli ho dato la mia amicizia, mi ha chiesto l'amicizia, glielo dà. Adesso devo studiare. Perché un'altra è una cosa però carretta, perché l'apparato quello lì non lo voglio mollare, perché poi se non programmi lo devo vendere, quindi non lo voglio vendere con l'apparecchio. Eh sì, hai visto quella senza filo messa sopra la sedia? L'hai vista quella prova che ha fatto, attaccava il cavo e riceveva come che fosse lo stilo. L'hai vista a trasmettere, no, perché è avversazionale, però senza stilo, l'hai vista solamente con la carica attaccata. Sì, sì, che c'è la propagazione, sentiamo la propagazione. Positivo. Beh, Giovanni non gliel'ha fatta lui le antenne, a Giovanni l'originale, quella grande che vedevi tu che sembra alzata, quella gliel'ha fatta lui, l'ha costruita lui. Quella tipo boccione. Quella, no, quella che è grande, l'hanno visto nel camion una volta, domani te l'avevi vista. Quella gliel'ha fatta lui stesso, poi ne ha fatto anche altre. Io ne ho visto una, Giovanni, che c'è, ma la carica sembra con boccione da canteramano. Quella forse l'hai vista a me, quella tipo boccione. Però c'è un'altra che è girata, che c'è una spirale grande. Quella non l'hai vista, quella lunga? No, forse non quella lì. Positivo. Quella lì che fa aspirare tipo l'antenna di casa. No, ma Tani riprendi. Sì, e cosa riprendo? Sto per andare, appena arrivano. Cava di cava. È una vera. E allora io mi preparo, dai. Mi preparo anche. Ma già mangiato avete voi? No, quando rientro mangio. Ah, qui ci state poco. E verso le 8:30 ce ne saliamo. Andare. Eia. Marco. Eia, scusate, io stavo finendo un po'. Ho mangiato un po' di frutta perché a pranzo eravamo dal McDonald's. Ho mangiato il frutto di frutta e poi un goccio di Jägermeister per fare scendere il tutto. Anche vizioso e digestivo si è preso, te l'immagini, l'amaro. Allora, sta diventando ubriacone, Marco. E poi lo Jägermeister è forte, mi sono 35 gradi, non so se mi spiego, è uno dei più forti liquori, credo, assieme all'Unicum. Sì, assaggia la lingua di suocera, cazzo, che l'hanno portata da fuori, è un po' confuso. Ce l'ho Gianni, ma non si beve liscio, assolutamente, non si deve bere liscio. Mi pare che sia a 75 gradi. Allora, istruzioni per l'uso. Versare 30 ml di prodotto in un bicchiere e aggiungere 2 cubetti di ghiaccio e aspettare pazientemente che si siano sciolti. Allora ha tutto un altro sapore. Capito? 30 ml di prodotto, 2 cubetti di ghiaccio, aspetti che si sciolgano, lo assaggi ed è buono, ma bevuto così è terrificante. Il latte di suocera, c'è il teschio disegnato. Ecco. E beh, chi la zanzara è mala, no? Quindi. Oh, tu pensa che io alla mia ex suocera gli avevo regalato il disco Zanzara Mara. Oh, yeah. E io glielo volevo regalare, si è offesa, detto che gli facevo un regalo, gli regalavo Zanzara Mara. E a me mi regali quello, perché io Mara so. No, si la fuzzi signora, ho udito. Chirio. Chirri lo sguardo di Satana. Io gliela giù regalata, manco male chi dai avvicinia allo scherzo e si è messo a ridere. Mi cosa c'è scritto sull'etichetta? Allora, latte di suocera, diabolicamente vigoroso. Poi c'è una scritta in tedesco, poi bevanda spiritosa, cento erbe, sì perché è fatta di erbe, no? Già usato dalla pirateria malese, c'è il teschio con le ossa incrociate, 75 gradi, però se fatto in quel modo è buono, aspetta dove è scritto? Allora, in una dose di 30-35 grammi, che poi sarebbero millilitri mi pare, aggiungere un cubetto di ghiaccio e aspettare pazientemente che si sia sciolto. E allora è buono, l'ho provata io mi, col ghiaccio sciolto, come aggiungere un po' di acqua fredda mi. Allora è bevibile. Ma bevuto così è veramente veleno. Infatti non è troppo forte, io l'ho provato a bere, ma ti dici che non ci vuole. Ma l'hai bevuto puro? Eia. No, c'è scritto dietro, non si beve puro. Puro ti raschia la gola, è terribile. terribile. Ha bevuto in quel modo, allora sì, che è un distillato d'erbe, è forte, molto forte, ma è più buono già col ghiaccio sciolto. Che poi è come mettere acqua fredda, l'equivalente in un cubetto di acqua fredda, molto fredda. Certo, lo usiamo poco questo, mamma mia. Da che l'ho comprato? Antica dolceria, via Roma 19 Sassari. Io naturalmente l'ho messo in frigorifero, era fresco, però non fa come si parava. Natale, aiuto. Aveci. Come dice? Sto aspettando che arrivino queste qui, ti premono, ti arrivano in prezza. Io che sono le 7, sono le 7. Pantaloncini, non mi pongo pantaloni roghi anche io, anche se un amico mi ha detto qui già che 24-7 anni non ti muovi i pantaloncini, non me ne ha frutti tutta, c'è caldo. E infatti poi metti i pantaloncini cotti. Scendiamo appena. Io da Oshan ero così, mi dà il caldo. Maglietta, pantaloncini corti e sandali aperti. Non si può stare altrimenti, ho visto gente con le ho visto una ragazza con gli anfibi. Cazzo, mamma, così, fuori mi, a Piazza Italia, tornando. Gli anfibi, la fanno matti. Poi via che ragazza che arrivi, ma quelli sono dark, che se li mettono sempre. Sono dark, metallari, tutti quelli si mettono, che siamo anfibi così, pantaloni stracciati. Di orecchini, di cose, di piercing, sono di randaggi. Buona rete, amico, con i capelli rossi. Questa si chiama fame. Fame sì. Bene, bene. Luigi c'è ancora? Già c'è lui. Attenzione, Gigino Vulcano, cambio. Luigi deve esserci allontanato. Io mi sa che mi preparo l'altarino e devo metterci la gabbia dentro, perché l'ho tutta per metterci le valigie. Ah, perché ha peso un furto. Sì, e tu non lo porti. Sì. E già lo porto, dai, così fa un'amicizia, si conosco. E io. Sì, quando tu mi manda in pari cose che le arricchi, gioca. E infatti almeno si diverte, perché lui gioca con tutti. Poi Tyson già se ne accorge che funziona. Quanto c'ha adesso? Un anno e sei mesi ha fatto il giorno qui. È un cucciolone grande già, eh. E l'altro giorno questo signore ci aveva un coso. Un bassotto, un cucciolo di bassotto. E Tyson si è avvicinato per farlo giocare, perché lui fa sempre giocare. No, no, non lo avvicini, per carità, se me lo morsi che mia moglie mi. Se mi sono avvicinato perché so che non lo no, non mi fido io. Mi chiamato, mi sta, riprendo la macchina. Vabbè, ci sentiamo giù allora. Marco, ci vieni allora? Ovviamente no, adesso mi spaparanzo a letto col ventilatore. Dai, godetevi la serata da parte mia. Ah, perché sei così molotto, aiu, pesadini, spronaz. No, dai. Per oggi sono già uscito. Che c'è Flo? Il gatto è venuto. La pallina! Che faccia che ha! Chi è? Avanti! E poi oggi. E io mi sto uscendo, mi sto andando a farmi un giro a Plattamona, a prima un poco di fretta, che io che vai sempre il gatto. E sto già riprendo la macchina, dai. Mi vesto adesso. Comincia ad andare. Sentiamo dopo. Non c'è nessuno perché c'è caldo ancora. Aspettano il fresco a scendere. Io vado, ci prendiamo gelati, ci mangiamo amici e cose. Dai. E ce ne freschiamo un po', dai. Anche per portare giù il cane, per una passeggiata. Capito? Ciao a tutti, ciao Marco. Ciao già, buona passeggiata, dai. Comunque se vorrei stare stiamo riprendendo la macchina subito. Non so se ci sarò ancora. Comunque Natalino è lo stesso col baracchino, Mi sentirete in macchina, tra macchine. Infatti. Ciao. Ciao. ciao, ciao, ciao anche Luigi, se l'ascolta ancora, ciao Eugenio, ciao, chiudo. Attento Gianni, Gianni, attenzione Marcolino, attento Gianni. C'è qualcuno qua? Avanti, chi è? Mi ascolti, chi sei? Franco? Chi è? Non ti tiro fuori. Come non mi tiri fuori? Sento il bip, sento. Vuol dire che sta funzionando male questa cosa, dai. Chi sei? Natalino Alfa 1. Natalino? Fra, Natalino sono. Non ti sento, ma non sei a casa? No, sono a Barrazzo Mobile, sulla 131. Negativo Natalino. Sento un bip. Aspetta, dai, tanto bisogna che mi firmi per vedere la situazione. Natalino, ti sento, negativo, dai, mi dispiace. Quindi un po' se cambi zona, magari ci sentiamo. Prova a vedere, mi senti adesso? C'è qualcuno qua? Franco, mi ascolti? Hola, hola. E qui non sto uscendo di radio. Hola. Hola, c'è qualcuno? Come la mia Condor, se ascolti qua, di qua. Torino, ci sei, cambio. E dove sei? Ci troviamo lì, sto partendo adesso. Sì, sto partendo adesso, ma sì, sentiamo che passa, la radio già ti ascolto bene, ma sono dentro, ancora dentro il posto macchina. Tu come mi ascolti, la radio è già buona, la tua, ce n'è un po' bassa, infatti per sarà la devi mettere. Se la metto, te la mandiamo a quello, la radio vuota, chi che si mette, la radio. No, sento il ponte, quello vicino a casa, là. Poco di tutto, qua, là. Natali, ce n'hai gente? Ah, pensavo che fosse. No, sono dovuto scendere a mettere il trasportino perché non faceva a prendere il trasportino e te, sono tutti due insieme, sono dovuto prima scendere a metterlo e poi a portare a lui. Adesso la gente comincia a scendere che c'è il freschetto e ci sono spettacoli, cose così. Adesso hanno fatto anche quel nuovo lido, hanno allestito, hanno fatto, hanno aperto la pizzeria, un bel di roba. Sei andato, perché? E ci facciamo una passeggiata e arriviamo alla rotonda, anche il guarda della torretta proprio pure in mano. Vero, che cosa c'è? Se va bene mi ascolti, cambi. Hola, attenzione Natalino. Il fatto che mi sono dimenticato di portare l'acqua fresca a bere, ce l'ho ma si sarà scaldata. Va bene. Attenzione, canale 10, cambi. Cambio basso. アフリカ向けの 6.010 メガヘルツ、アフリカ向けの 15.130 メガヘルツ、以上の周波数でお伝えします。こちらは